Radio 24 in collaborazione con Scegli l'energia di Green Network Energy. Scopri di più su greennetworkenergy.it. Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in you, baby. I got faith. Eccoci qua, 8 e 10 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Ben ritrovati a tutti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Giochiamo con un personaggio della settimana. Come tutte le domeniche. Mi raccomando. Un personaggio per cui vi daremo degli indizi, sì. E un personaggio che ha una notizia legata all'ultima settimana. Diamolo subito l'indizio, vai, partiamo secchi. Il primo indizio è che non molla mai. Allora, non molla il personaggio, una notizia degli ultimi 7 giorni che lo riguarda. Pensate, chi indovina per primo si porta a casa i biglietti della mostra di Klimt al meraviglioso MUDEC di Milano. Cari ascoltatori, Carlo, Milano-Monterosa intanto? Milano-Monterosa, oggi c'era un po' di nuvolette, non so ancora. Ci vediamo sempre più presto e quindi è sempre più difficile fare il meteo, perché intorno alle 4 del mattino è talmente buio che non si capisce niente. Controllori dei fatti, cari ascoltatori, questa mattina dovete aiutarci a controllare questi fatti. I fatti riguardano i circhi italiani. Perché? Perché c'è un disegno di legge allo studio del Parlamento che ha superato il primo vaglio in commissione, che parla del graduale superamento dei circhi. Mai più animali esotici nei circhi italiani alla lunga. Per il momento ci sono regole un po' più stringenti. Allora vi chiediamo non solo che cosa ne pensate dell'esperienza del circo. Gli animalisti sono contrari per lo sfruttamento degli animali. Per molti bambini però è l'unico modo con cui si viene a contatto, spesso il primo modo. Vero, verissimo. Un antico spettacolo con cui si viene a contatto con gli animali. Va detto una cosa, sì. Che in realtà è molto vero che è l'unico modo in cui vengono in vero contatto, però un tempo questo era, sì, più comprensibile, mentre oggi che vediamo gli animali nei documentari di National Geographic, in televisione, forse abbiamo lì l'approccio con gli animali e non per forza bisogna tenere degli animali in gabbia per farli vedere a dei bambini. E questa è proprio la posizione di chi critica questa legge, perché è troppo morbida, troppo leggera. Staremo a vedere, ne parleremo più avanti. Intanto 800 24 00 24 se volete prenotare il vostro intervento in diretta, se lavorate in un circo, se avete lavorato in un parco con animali, ma anche se ci siete andati per vedere se avete andati. Visto gli animali, se vi è piaciuto, se però stavano bene o se stavano vogliamo male. Vogliamo proprio nominarvi controllori dei fatti. Il fatto fondamentale è: gli animali nei circhi vengono maltrattati, e quindi chi ha lavorato, conosce questa realtà, oggi è la vostra puntata, chiamateci. Adesso direi i titoli dei giornali di oggi rapidamente, perché c'è, sì, già, signori, stata Giulia Crivelli che ha abbondantemente sviscerato le tematiche, però noi andiamo a caccia di buone notizie. Vabbè, i titoli sono... I titoli come sempre non contengono delle grandi buone notizie. No, a dire la verità pagina. No. Anche se sulla stampa ce n'è, esatto, una. Ce n'è ti una. Volevo, lì ce ti n'è volevo. Una di cui in ci occuperemo anche noi. Vai. Esatto, la prima libreria nel regno di Gomorra, Scampia. Il cugino del proprietario fu ucciso dai clan e lui ha aperto una libreria che si chiama La Scugnizzeria. L'ultima libreria a chiudere lì esattamente fu 40 anni fa, quindi è veramente una buona notizia questa. E allora, però dicevi giustamente, i titoli sono di su altro Di Maio, stampo. Sono Di Maio, candidato soprattutto dei correggimi. 5 Stelle, scrive il Corriere, ma per le primarie sono solo in 37.000 a votare, dice il Corriere. Repubblica, Grillo, ecco il premier incoronato Di Maio, ma lo vota solo un iscritto su 5. Sì, un iscritto su 5 non è il numero del risultato, se ho capito, in realtà sono 31.000 voti, tipo su 37. 37.000, però tra tutte le persone hanno votato meno persone, quindi sono andati meno a votare. A proposito di votare, si vota in Germania, quindi questo è un altro titolo oggi, guida al voto tedesco che può cambiare l'Unione Europea, le urne in Germania, scrive il Corriere. Che cosa rischia la Merkel? E poi ancora oggi in Germania, scrive il Fatto Quotidiano, sul quarto regno della Merkel, perché questa sarebbe la quarta incoronatura, eh? Eh sì, qualcuno parla di eternità. Quattro sono veramente tanti, eh? Allora, poi tra i titoli di oggi ci abbiamo però anche la notizia che non vorremmo leggere. Esatto. La notizia da urlo. Questo è il super titolo, che è partito. Allora leggiamo il super titolo. Allora andiamo con il super titolo. Vince questa settimana, questa domenica, il super titolo. Il Corriere con questo titolo: se guidi il taxi, svilupperai un ippocampo super. Che uno dice, che cacchio è l'ippocampo super? Beh, l'ippocampo è il cosiddetto centro di comando, sì, all'interno del cervello, che è un organo plastico in continuo divenire. E se fai il tassista, lo sviluppi tantissimo. Penso che in realtà sia soprattutto se facevi il tassista conoscendo tutte le vie a memoria. Perché una volta che usi il GPS, secondo me l'ippocampo si fa un po' i fatti suoi. E adesso invece abbiamo annunciata la notizia da urlo di oggi. Ce l'abbiamo? È questa qua. La facciamo dopo il traffico. Vai, dopo il traffico, perché sono le 8:16, 800 24 00 24. Cerchiamo un personaggio della settimana. È uno che non molla, eh. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, 8 e 17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Oh, allora, comunque si può dire che è una buona notizia il fatto che un partito abbia fatto le primarie, abbia scelto il suo leader democraticamente, anche se qualcuno dice 37.000 voti non sono tanti. No, no, la questione però, è anche sul democraticamente, se vogliamo, la questione è che forse l'avevano già deciso nel momento che di fianco gli metti i cosiddetti sette nani, però insomma. E allora, è questa in effetti la fronda. Adesso leggiamo, però prima di leggere sulla della fronda, voglio leggervi chi sono quegli altri che sono stati votati, perché hanno preso dei voti anche loro, eh. La Repubblica, perché bisogna dare onore al merito, perché certo. Di Maio ha preso 30.936 voti, ma la signora Elena Fattori ne ha presi 3.596, un decimo. Nadia Piseddu 1.410, li voglio leggere tutti, Gianmarco Novi 543, perché o sono loro amici oppure sono persone che pensavano veramente che questi potessero essere candidati premier. Marco, certo. Zordan 373, Vincenzo Cicchetti 274, Andrea Fralliciardi 168, Domenico Ispirato 102 voti. Sentiremo ancora parlare di loro, forse. No, esatto, no, però in realtà volevo precisare solamente una questione. Io quello non sto dicendo che non sia una questione democratica, sto dicendo che se avevano già deciso che fosse Di Maio, secondo me il Movimento 5 Stelle poteva semplicemente incoronare Di Maio, perché giustamente lui sta studiando da 2 anni per fare il premier e ci sta che sia lui. Il fatto di fare delle primarie, francamente sapevamo tutti che avrebbe vinto, quello invece sembra un po' meno utile, ecco. Allora non la leggo l'intervista a Carlo Sibilia, perché dice le stesse cose che hai detto tu. No, non l'ho letta nemmeno io. Sul Corriere, Carlo Sibilia: ora la squadra sia condivisa, no al leaderismo, io non ho votato. Ieri è stato visto parlare molto con Roberto Fico, scrive il giornalista del Corriere che poi fa l'intervista. Sono i due diciamo dell'ala ortodossa che criticano che cosa? Io non ho nulla contro Di Maio, dice Sibilia, però lancio un allarme, stiamo correndo il rischio di snaturare il movimento, siamo nati con lo slogan dell'uno vale uno, ma ora potrebbe non essere più così. Hanno costruito un meccanismo con investitura che è stata decisa molto tempo fa, il risultato era scontato, chi pensavate che potesse vincere? È questa la domanda. Poi c'è Dibba che, emozionato, ha annunciato che sta per avere un figlio, lo sappiamo, in videoconferenza. E lo sta per avere da un sacco di tempo. Dici che sono, scusami, più di 9 mesi, so sono che... più di 9 mesi. Esatto, che noi siamo sempre in cerca di buone notizie. Adesso andiamo nelle buone notizie. Però prima, per giustizia, sia il giornale sia il Fatto Quotidiano aprono invece con il titolo "Spariti i soldi degli SMS donati ai terremotati". Dei 33 milioni neppure un euro è arrivato ad Amatrice, dice il giornale. E il Fatto Quotidiano dice: il sindaco di Amatrice, non un euro delle donazioni è arrivato alla gente. E questa era in effetti Forse è la peggiore, si può la dire. La peggiore notizia. Allora è arrivato il momento di invertire il corso della settimana con le 5 migliori notizie della settimana. Si può 5. Allora, cominciamo al quinto posto con la notizia che viene da Linosa. Torna in mare Chiara, la tartaruga avvelenata dalla plastica. Voi pensate che possa essere uno scherzo o una cosa? Qua invece no, perché ormai lo sappiamo purtroppo che plastiche e microplastiche sono frammenti inferiori ai 5 mm, sono presenti purtroppo negli oceani, ma anche nel mare Mediterraneo, che è gravemente afflitto dal problema, spiega Stefano Nannarelli, responsabile del centro di recupero tartarughe di Linosa, che ha rimesso in mare Chiara dopo averla curata e insomma l'hanno aiutata a respirare, curata dopo aver ingerito rifiuti di plastiche. Facciamo qualcosa contro la plastica nel mare, soprattutto smettiamo di buttarcela in tutti, esatto, i modi. Io non so come ci arriva, ma in tanti modi non deve arrivarci più. Al quarto posto, Pompei, aprono per la prima volta al pubblico il complesso di Championnet e la Casa del Marinaio. È un'ottima notizia, spesso diamo contezza delle riaperture a Pompei e anche questa volta al quarto posto appunto questi due complessi, il cosiddetto complesso di Championnet della ottava Regio e il secondo edificio invece è la Casa del Marinaio. Insomma, Pompei dopo tutti i lavori, i recuperi, eccetera, i cantieri, sta tornando veramente agli antichi splendori, ne siamo felicissimi. Terzo posto, siamo sul podio, un'iniziativa di solidarietà che si chiama Bella Livorno, una tour nazionale pro alluvionati. Intanto c'è una prima data martedì prossimo alle 21 al Teatro Goldoni di Livorno, si esibiranno Banda Bardot, Bobo Rondelli, Bruno Risas, Nada, ma anche di Zen Circus, Tommaso Novi, tutto naturalmente per accogliere fondi a favore degli alluvionati. È andato sold out in 12 ore. Perfetto. Questo concerto qua, però salutiamo Bobo Rondelli, salutiamo Bobo Rondelli, ma anche Bruno Nori, va, già che ci siamo, quest'estate ho visto un bellissimo concerto in Calabria, ma sulla pagina Facebook di Bella Livorno trovate l'IBAN per continuare a donare, perché il concerto è andato sold out, quindi non c'è più modo di entrare, eccetera. Ma avete la possibilità di pagare il biglietto senza andare al concerto. Che comunque è detta così, esatto, però è detta apposta così. Al secondo posto, sempre sul podio, Tunisia, le donne potranno sposare anche non musulmani. Liberi di sposare chi vogliono, la Tunisia ha abrogato, se possiamo dire finalmente, il divieto per le donne di sposare uomini non musulmani, aprendo i matrimoni interconfessionali. Fino a ieri invece in Tunisia, appunto, come in molti altri paesi musulmani, non si poteva, nel senso che una donna per poter sposare un uomo di un'altra religione doveva far convertire il proprio partner. Invece adesso non è più così. Piccoli passi, piccoli passi che piccoli però passi, noi notiamo. E noi notiamo, ne abbiamo compiuti anche noi di piccoli passi in passato, non eravamo sempre così liberali, esatto, esatto, progressisti, anche da noi insomma. Adesso lo siamo. Primo posto, addio manodopera, buon mercato anche nell'est Europa. Vi ricordate, sono dati Eurostat, la storia dell'idraulico polacco, lo spauracchio che l'idraulico polacco venisse all'inizio della convergenza dei paesi nella moneta unica a sottrarre lavoro agli operai italiani a più basso costo? Ebbene, secondo Eurostat ormai questa cosa non esiste più all'interno dell'Unione Europea, c'è un quasi livellamento degli stipendi, tanto che il sondaggio è questo: il 51% degli imprenditori polacchi l'anno scorso ha dichiarato di incontrare difficoltà nella ricerca di manodopera che accetti retribuzioni, devo leggerlo tutto perché va spiegato, pagabili e capaci insieme di garantire profitti delle aziende locali. Cioè, se continuano a pagare gli stipendi bassi del vecchio idraulico polacco, l'idraulico polacco non ci va a lavorare, e quindi sta aumentando il livello dei salari, che è una cosa positiva perché vuol dire più diritti per tutti in Europa, più armonia all'interno dell'Europa. Però si paga di più l'idraulico, ho capito. Ma noi già lo pagavamo, quindi, noi però almeno l'idraulico con i diritti, giusto, e l'idraulico italiano non perde, non rischia più, giustissimo, di perdere il lavoro. Giustissimo. Fine delle 5 migliori notizie della settimana. Give me five. All right. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo. Sono nel 2038, sono in un piazzale di una grossa fabbrica nel sud della Germania, in Baviera. Oggi, qui nel 2038, stiamo per celebrare un momento davvero storico. L'ultimo operaio ad aver lavorato in una fabbrica va in pensione. Si chiama Johann o Giovanni, è un immigrato italiano da generazioni, lavora in Germania, faceva l'operaio ed è l'ultimo manovale che esce da una fabbrica. Come sapete, dalla prima rivoluzione industriale fino ad oggi, gli uomini, le macchine e l'automazione hanno coabitato le fabbriche. Da secoli è stato così, ma negli ultimi anni, grazie proprio ai piani industriali che le nostre nazioni europee stanno discutendo nei vostri giorni, nel 2018, nel 2017, che sono state proprio ratificate in quelle settimane in cui voi vivete, oggi l'industria è tutta un'altra cosa. Le fabbriche sono completamente autonome, non ci sono più umani, e questo è un momento importante per la nostra storia. Qui è pieno di persone, uomini che fanno altro adesso nella vita, sono tornati a fare agricoltura, a fare filosofia e programmano macchine, ma non ci sono più operai nelle fabbriche. Questa è una bella notizia dal futuro. Io vi richiamo presto da qui, da dove sono, per raccontarvi altre storie di cambiamento umano. A presto. Questo è Massimo Temporelli, si potrà fare nel 2038. L'ultimo. La cosa bella è l'immagine proprio dell'ultimo che va in pensione, che va in pensione. Però la cosa bella è che ha detto: qui c'è un sacco di gente intorno che lavora, quindi non è che esce l'operaio dalla fabbrica e non si lavora più. E c'è solo disoccupazione e mestizia. No, assolutamente. Le macchine ci sostituiranno su certi lavori che noi non vogliamo più fare. Allora, siamo si può fare. Stiamo dando un'occhiata al giornale di oggi, la rassegna stampa vera l'ha già fatta Giulia Crivelli nell'ora precedente, però una bella storia siamo riusciti a trovarla anche tra la carta pubblicata oggi in edicola, perché anche i giornali ogni tanto ha ricordato prima la stampa, che c'è in prima pagina la libreria di Scampia, ne parleremo anche noi. Corriere, anzi Repubblica di Milano, Fabrizio Bonfanti, la storia di questo signore qua che da 23 anni è giovanissimo, prepara ogni giorno i pasti per più di 2500 bisognosi. È una storia incredibile. Lui lavora, dov'è che lavora esattamente? All'Opera San Francesco. All'Opera San Francesco. E la cosa incredibile, lui è dipendente, lavora, cioè ha il suo stipendio, quindi non è un volontario, però riesce da solo per risparmiare, perché i soldi non sono tanti per dare da mangiare ai bisognosi, ahimè, 1000 pasti al giorno, appunto, e lui fa tutto da solo. Spiega come funziona: inforniamo tutto fino alle 10:30, poi controllo io le cotture, tengo tutto sott'occhio, riesco a gestire 120 kg di pasta, che sono quelli che bollono, e 120 kg di verdura contemporaneamente. E va bene, incredibile. Forse andrebbe fatto un MasterChef proprio per questi, per questi cuochi che hanno un altro tipo di problema, ovvero il loro problema non è l'impiatto o come usare 120 kg di pasta, ma devi fare 120 kg di pasta in 40 minuti possibilmente, perché poi non è che c'è tanto tempo, anche meno se non vuoi farla scuocere. Poi aggiungo solamente una cosa, che prima hai fatto bene a leggere tutti i cosiddetti sette nani candidati insieme a Di Maio, perché ci scrivono, e mi sembra importante ricordarlo, se studiati i profili delle due donne tra le candidate di cui una votata da me, avremo avuto l'intelligenza, la razionalità al potere, e sono quelle che hanno preso più voti tra i vari sette nani. Mi sembra giusto riconoscere il merito. Abbiamo un aggiornamento che è sui giornali di ieri, che ieri non avevamo visto in realtà, ma che riguarda una notizia di cui ci siamo occupati ieri, che era la moda, però con l'allerta sullo spreco. Capi d'abbigliamento con cicli di vita troppo corti e si spreca troppo. Ne abbiamo parlato con Greenpeace. Allora, il titolo è questo: il green carpet della Scala, ottenuto da reti di pesca rigenerate. Sono reti da pesca che vengono dalla pesca del salmone in Norvegia, ma anche in Scozia e altrove nel Mediterraneo, e con queste hanno fatto il green carpet su cui sfileranno stasera alla Scala per il Fashion Award di stasera. Quindi, insomma, anche l'alta moda. Beh, non so se però il carpet non è proprio altissima moda. Il carpet è il tappeto. Ragione, però insomma va bene. Magari se da quel carpet poi faranno invece dei delle vestiti, magliette. Allora sì. Esattamente. Lì che vi vogliamo. 800 24 0024. Cari ascoltatori, pausa. Però cerchiamo un personaggio della settimana. Ricordiamo l'indizio. non molla mai. È uno che non molla mai. E poi tra poco parleremo di circhi, perché c'è un DDL che vuole limitare parla di graduale superamento della presenza degli animali nei circhi italiani. Vi chiediamo con le parole giuste, perché è tutta una questione, sì, di parole, ho visto lì quel DDL. Vi chiediamo, cari ascoltatori, se avete lavorato in un circo o in un parco con animali, chiamateci. Questa è la vostra puntata, vogliamo nominarvi controllori dei fatti, quindi vi chiediamo: ma veramente nei circhi gli animali vengono maltrattati? A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, ben ritrovati. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Vi ricordo che all'800240024 cerchiamo un personaggio della settimana. È uno che non molla. Adesso, come detto, è il momento di parlare del DDL che è stato approvato al Senato, che prevede il graduale superamento degli spettacoli con animali nei circhi italiani. Non è quello che chiedevano gli animalisti, cioè la chiusura dei circhi con animali sostanzialmente. Saranno più soddisfatti invece gli amanti di questo antico spettacolo, che spesso, come dicevamo, è un modo attraverso il quale anche i bambini venivano, forse oggi meno, ma accade ancora, contatto con il mondo degli animali, un settore che in Italia conta circa un centinaio di circhi con 6.000 addetti. Ne parliamo con la relatrice della legge, Rosa Maria De Giorgi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Benvenuta. Allora, che cosa prevede sulla questione dei circhi il DDL che è stato appunto approvato, come diciamo, al Senato? Prevede il graduale superamento, come correttamente lei ha detto, dell'uso degli animali all'interno del circo, cercando di favorire i nuovi spettacoli, tutti quegli spettacoli che già sono molto numerosi in tanti dei nostri circhi, che non prevedono l'uso di animali. Questo è un po' il senso della legge, e dobbiamo anche dire che è stato un elemento anche di mediazione positiva usare questo termine, che tanto è stato contestato da molti, sia da una parte che dall'altra, perché per qualcuno era troppo poco, per qualcuno era troppo. Quindi, come sempre succede in questi casi, abbiamo dovuto trovare l'equilibrio. Che significa? Significa che diamo tempo al mondo del circo, lei ha dato i numeri che sono quelli reali, al mondo del circo diamo il tempo di riorganizzarsi. Non si può pensare che nel giro di pochissimo, ci avevano chiesto 2-3 anni, che nel giro quindi in un periodo così breve si possa cambiare completamente un lavoro che è fatto di animali, è fatto di persone, è fatto di economia. Quindi bisogna con calma andare avanti verso questa cultura, che è la cultura del non uso degli animali. Insomma, si può fare spettacolo di circo bellissimo anche senza animali, certo, però con il tempo. Ma mi scusi, le volevo fare una domanda, perché giustamente, come sta dicendo lei, sembra molto anche una guerra di parole, però poi dietro le parole ci sono anche dei significati, nel senso che prima si parlava di graduale e progressiva eliminazione. Esatto. Adesso si parla di sempre graduale, sempre progressiva, superamento. Ma che cosa significa superamento? Guardi, superamento significa la cosa molto semplice, non c'è niente di strano dietro la parola. Poco alla volta si va a spettacoli di natura diversa. Questo quindi, ma questo non vuol dire graduale eliminazione, nel senso che fra 3 anni si possono ancora avere gli animali o no? Sì. Tra 3 anni si possono ancora avere gli animali, ma i 3 anni non erano mai stati nel testo. L'emendamento su cui abbiamo concordato e che ha rappresentato la soluzione è Lei si provi a leggerla, provi a leggerla, invito anche a farlo, nessuno lo farà, ma insomma, l'eliminazione sembra quasi che si debbano uccidere gli animali, esatto. Il problema forse dei Giorgi sono gli animali viventi, gli animali viventi. Esatto. Provo a capire, gli animali viventi già impiegati nei circhi, che non potrebbero, animali esotici, leoni, esatto, o quant'altro, essere rimessi a vivere nella savana perché ormai perché sono addomesticati, non sono mai stati e quindi bisogna anche aspettare il ciclo di vita, forse questo è anche un punto. Esattamente, anche perché, però, sì, anche sì, perché... Sì, prego. Sì, le finisco di dire, anche perché non abbiamo in Italia luoghi dove questi animali possano continuare a vivere con il loro benessere. È un benessere che in qualche modo è assicurato, perché ci sono molti controlli nei circhi, perché ora poi stiamo facendo, c'è tanta propaganda anche molto negativa in questo senso. Questi sono animali che sono nati nei circhi, che sono molto curati all'interno del circo, quindi c'è bisogno di un cambiamento graduale, anche perché le introduco l'altro argomento in questa discussione: i cavalli, i cani, quante sono le attività dove ad esempio i cavalli vengono utilizzati, a partire dalle parate militari, a partire lei in qualche modo sta prevenendo la mia domanda, perché la domanda che le volevo fare è questa: in un paese nel quale è consentita la caccia, è consentito cibarsi di animali, uccidere gli animali al fine di mangiarli, il circo è una priorità per quanto riguarda lo sfruttamento degli animali? E l'altra domanda è: se un animale viene maltrattato, per esempio, all'interno di un circo, è giusto chiudere tutti i circhi o è giusto punire eventualmente dove questo accade, cioè il singolo caso di maltrattamento o di sfruttamento che non rispetti le norme? Cioè, la premessa di questo disegno di legge è qual è, le sto chiedendo, dal punto di vista dello sfruttamento degli animali? Si parte dal punto di vista che il circo è un luogo dove l'animale viene maltrattato, è questo? Ecco, qualcuno avrebbe voluto che si partisse da questo, noi invece non siamo assolutamente partiti da questo. Abbiamo detto che c'è una vita che si svolge nel circo fatta anche con animali, ci sono delle sanzioni pesantissime ove si registrino maltrattamenti, quindi c'è un controllo capillare fatto anche dalle stesse federazioni internazionali dei circhi, degli allevatori, eccetera, per cui è evidente che c'è stata molta strumentalizzazione in tutto questo. Tra l'altro, lei mi sta facendo questa trasmissione utilissima per spiegare questo, ma sono quattro righe queste di un disegno di legge, non è un disegno di legge sui circhi, questo è un disegno di legge che parla di tutto lo spettacolo dal vivo in Italia, una legge che si aspettava da 30 forse anni. Forse allora c'è bisogno di una legge specifica proprio nell'ambito dell'impiego degli animali. Lei stava dicendo ci sono altre attività, cani da ricerca, per esempio, cavalli da traino, eccetera, eccetera. Sì, ma infatti il rischio credo è che sia una legge per cui poi non si capisce se accadrà veramente qualche cosa, nel senso che se non c'è una data di fine, se non è messa una data di fine, ma c'è un graduale superamento, uno si chiede, per come vanno anche le cose in Italia, se cambierà qualche cosa o se effettivamente ci stiamo semplicemente dicendo lentamente fra un po' gli animali non ci saranno più. Ci stiamo dicendo lentamente fra un po' gli animali non ci saranno più, perché è la cosa più equilibrata da fare in questo momento, perché c'è una situazione in essere, c'è una cultura che è molto avanzata, per cui si va in una direzione che è quella di un rispetto degli animali, un rispetto che non prevede il loro impiego, ma non si può nemmeno pensare che ci sia qualcosa di negativo esclusivamente per il circo. Certo. Perché ci sono tante attività di divertimento, pensate agli ippodromi, di divertimento che prevedono l'uso dei cavalli, l'uso degli animali. Allora c'erano state anche nella discussione parlamentare delle proposte che puntavano a dire proviamo ad escludere soltanto alcuni animali, ossia gli animali esotici, che evidentemente sono quelli più sotto il mirino, perché è chiaro che una tigre che salta nel cerchio infuocato, magari così nella sua vita, non è che magari vorrebbe fare quello, anche se magari abituata da quando è nata a fare. No, però è molto giusta la precisazione. Io rilancio intanto con gli ascoltatori all'800 24 00 24 il numero per intervenire in diretta, per raccontare la propria esperienza col circo, non solo da spettatore ma se possibile anche da operatore, perché potrebbe essere un'occasione questa per illuminare un angolo di realtà come è quello del circo visto da chi, o dei parchi dove ci sono gli animali, o comunque dove vengono impiegati gli animali, dal vostro punto di vista, che magari ci state lavorando in questo settore. La domanda è se veramente è una forma di maltrattamento o di sfruttamento questo degli animali nei circhi. Quindi tra poco ascoltatori controllori dei fatti. E invece io la volevo ringraziare, perché in realtà questa precisazione mi sembra molto, molto chiara, nel senso che esistono altri tipi, sempre nell'ambito del divertimento, che effettivamente prevedono gli animali, e quindi diventa difficile dire semplicemente, cioè da domani non si possono più, perché invece diciamo che l'argomento di Giovanardi, che dice allora proibiamo l'uso anche degli animali per salvare la gente sotto le valanghe, ecco, questa invece mi sembra una castroneria che non c'entra niente con quello del quale si sta occupando il suo DDL. Sì, nel dibattito naturalmente poi è venuto fuori di tutto, insomma, certo, dentro l'aula, perché evidentemente poi le posizioni si scontravano e quindi c'era di tutto. Però immagino che siano entrate anche le unioni civili, così, già che c'eravate. No, quello magari questa volta di questo non abbiamo parlato. Abbiamo parlato però anche molto, e lo ripeto, di teatro, di nuova modalità di gestire con delle risorse tante in più il mondo del teatro, dello spettacolo, della musica. Guardi, la musica popolare dal vivo, è questo quel DDL, poi si parla soltanto di circo. Se mi permette una battuta, direi che giustamente, come dice lei, il DDL si occupa anche di teatro, e bisogna anche tutelare i cani che lavorano in teatro. Ah, e tutti quelli ad esempio che lavorano nel cinema, c'è stata questa discussione, perché soltanto nel circo? E anche questo è giusto dirlo, ma pensiamo anche agli acquari. Gli acquari dove ci sono quei pesci, quelle creature meravigliose che nuotano davanti agli occhi dei nostri bambini, stanno benissimo in un acquario? Forse vogliono stare nell'oceano. Allora bisogna essere sempre un po' più equilibrati nelle posizioni. Quando si fa una legge è evidente che devi tenere un po' tutto insieme. Lì in quella legge si parla del circo, perché è la legge sullo spettacolo, e quindi tre righe sono dedicate anche al circo. È chiarissimo. Grazie Rosa Maria Di Giorgi, relatrice del DDL spettacolo, che all'interno contiene una piccola parte relativa alla questione dei circhi, di cui ci siamo occupati questa mattina. Vi aspettiamo tra poco, ascoltatori. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo, chi abbiamo? Teresa, che chiama da Marostica. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Prego. Ben trovati. Grazie anche a te, Teresa. Su cosa volevi intervenire? Volevo dire che la persona che non molla mai, secondo me, è Valentino Rossi. Il nostro personaggio della settimana, perché? Sì. Vabbè, perché insomma. Lo sappiamo tutti. Lo sappiamo, ma ricordiamolo, perché magari c'è qualcuno. Ce n'è uno distratto, uno solo che non sa, esatto, che Valentino Rossi si è fatto male a una gamba, si ma è già tornato in pista. Tibia, perone, tutto, e ha intenzione di tornare in pista subito, adesso. Ha avuto anche episodi, per cui è stato bravissimo a riprendere velocissimamente, con grande grinta. Però guarda, non era lui il personaggio, Teresa. È tutto giusto, è giusto. Un po' un trappolone, ma non è lui. Ci stava alla grande, un personaggio che non molla, però avevamo pensato a qualcosa di diverso. Vediamo se Eleonora da Pisa ci si avvicina. Eleonora? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, il personaggio per me mi è venuto spontaneo, Berlusconi, perché effettivamente non molla veramente mai, nonostante l'età, e sembra la Rada Fenice, è ritornato Argillo come Ellie, un ragazzino. Ellie vuole fare il leader del centrodestra, dovrà vedersela con Salvini, non molla sicuramente, anche se è molto dietro le quinte. E era lui? No. Non era lui, ma sicuramente è uno che non molla mai. Grazie Eleonora, mi verrebbe da dire che qualcosa in comune col personaggio ce l'ha, mi verrebbe da dire, ma non so se l'ho detto, non l'ho detto. No, non l'hai detto. Non l'hai detto. Allora, continuiamo a cercare qualcuno che non molla. Adesso una bella notizia che viene da Scampia. E ce l'abbiamo già? Ce l'abbiamo, Rosario Esposito La Rossa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dell'associazione Voci di Scampia, fondatore della Scugnizzeria. In realtà la notizia l'abbiamo anticipata perché oggi siete anche in prima pagina della stampa e quindi anche i giornali nazionali si occupano di voi. La buona notizia è che riapre dopo 40 anni, chiuse l'ultima libreria nella strada tra Melito e Scampia. Ieri l'inaugurazione, complimenti intanto perché è una cosa. Siamo felicissimi, complimenti. Intanto aprire una libreria è una cosa da temerari perché di questi tempi. Assolutamente, anche in qualunque posto. In qualunque posto. Poi lì, Sì, per noi è una grossissima soddisfazione perché è una cosa che mancava nel quartiere, è uno spazio di proprietà della nostra associazione, quindi questo abbiamo fatto un sacrificio enorme per comprarlo, però questo ci libera da stessori, bandi, rinnovi, ci permette di progettare a lungo termine, quindi è un luogo che mancava quando eravamo piccoli e questa terra era gomorra. Oggi invece c'è un'opportunità per i giovani del territorio che è quella di venire, creare con le proprie mani, perché la Scugnizzeria oltre ai libri è anche teatro, sono anche laboratori artigiani, è uno spazio molto grande dove si fanno tante cose. La Scugnizzeria è bellissimo, Tra l'altro, si inizia con un libro ma poi si va avanti, infatti giusto, è un po' come con la droga, infatti giustamente tu dici che sei uno spacciatore di libri e mi sembra perfetto, uno inizia con un libro, magari il primo è anche in omaggio e poi lentamente ti ritrovi a fare l'attore, a fare il teatro, ad amare tantissimo la cultura, giusto? Assolutamente, noi volevamo recuperare delle parole rubate dalla mafia, il napoletano spaccio era un luogo dove si compravano cose buone a basso prezzo, poi è diventato sinonimo di criminalità e quindi vogliamo recuperare queste parole molto belle rubate dalla mafia, è casa degli scugnizzi perché noi dobbiamo lavorare prima con questi bambini, è troppo facile lavorare con i figli di papà, dobbiamo preoccuparci di chi è in difficoltà, insomma. Certo, senti, se ne è accorto anche Le Monde, non so, il quotidiano francese, il prestigioso quotidiano francese, non so se avete saputo, immagino di sì, che ha scritto un articolo nel quale dice basta con questa immagine di Scampia legata a Gomorra e alla Camorra, perché adesso Scampia è tutta un'altra cosa, associazioni, un fiorire di iniziative di cittadinanza, hanno contato non so quante associazioni che sono nate lì nel quartiere. Vi ci ritrovate in questa, come vivete un po' questa doppia immagine che comunque è anche una doppia realtà, immagino, che vi riguarda? Sì, ovviamente noi abbiamo subito sulla pelle la potenza della criminalità perché siamo parenti di una vittima innocente di Camorra, nostro cugino Antonio Landieri è stato ucciso durante un agguato, una vittima innocente di Camorra, era un ragazzo disabile, quindi sappiamo il male che può fare. Però è anche vero che rispetto alla narrazione, diciamo, della fiction di Gomorra o comunque di una Scampia ormai stereotipata, quella di 10 anni fa, oggi è cambiato, oggi al posto delle piazze di spaccio ci sono centri come il nostro, il centro sportivo Arci Scampia, il centro Mammut, oggi potrei accompagnarvi a piedi e farvi vedere che ogni 80 metri c'è un presidio culturale. Quando i luoghi non sono abbandonati diventa difficile per la criminalità. Guarda che io vengo, vi aspetto, vi aspetto. Ci avete anche il TG delle buone notizie che volete lanciare, vero? Facciamo una partnership con Si Può Fare? Mi farebbe tantissimo piacere, magari venite e insegnate ai ragazzi come si fa la radio, sarebbe un sogno. Sarebbe bello, sarebbe bello. Complimenti, complimenti. Avete un titolo particolare in vetrina, dei titoli particolari, qualcosa per caratterizzare la Scugnizzeria? Sì, al di là dei libri classici abbiamo una sezione che si chiama Ospedale dei Libri, che è una cosa molto bella. Sono dei libri che erano destinati al macero perché rotti e noi insieme ai ragazzi e agli ex detenuti li recuperiamo. Cioè li curiamo e li rimettiamo in commercio. Quindi chi ha bisogno di una seconda chance, è una seconda chance ai libri, aggiustando Bello. La storia ma aggiustando le proprie storie. Bellissimo. E i libri di Saviano ce li avete però? No, per ora no. Però arriverà. Ottimo, mi sembra un'ottima chiusa. Rosario Esposito, La Rossa, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci. Mentre io sto cominciando a perdere la voce, come di consueto, a quest'ora, abbiamo un ascoltatore che chiama da Modena. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Vai. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ah, secondo me il personaggio è Alessio Zanardi, scusate. Ha partecipato alcuni giorni fa all'Iron Man, quindi ho pensato a lui, anche perché insomma è una persona che sicuramente non molla mai. Beh, aggiungiamo qualche particolare, perché noi cerchiamo anche di ripercorrere le notizie che riguardano i nostri personaggi della settimana. E siamo felicissimi di ricordare Zanardi. Allora, non io lo so dire, ma visto i risultati, cioè non lo so, ho seguito la preparazione su internet, diciamo, sul web. Non ho idea del risultato finale, ma insomma, vabbè. I risultati che ha avuto penso che sia andato molto parlano, bene. Sì, parlano da soli esatto, e devo dire la verità, non lo sappiamo neanche noi come si è classificato, perché in effetti non era lui il personaggio della settimana a cui avevamo pensato. Fabio, grazie. Però salutiamo tanto anche Alex Zanardi. Naturalmente. È un altro il personaggio che non molla. Dopo il GR vi daremo un altro indizio, cari ascoltatori, all'800 24 00 24 per portarsi a casa i biglietti della mostra di Klimt al Mude di Milano. E poi vi chiediamo di intervenire sulla questione dei circhi, maltrattamenti degli animali nei circhi, se ci avete lavorato, se ci avete vissuto, se li avete avuti vicino casa, se lavorate in un parco a tema. Questa è la vostra puntata, potete diventare, per Si Può Fare, controllori dei fatti. I fatti sono questi: come vivono gli animali all'interno dei circhi, perché sapete, abbiamo parlato del DDL che prevede il graduale superamento dei circhi con animali nei prossimi anni. Tutto questo dopo il GR. Studiare, fare stage, lavorare, fare impresa all'estero. Una generazione mobile. Il mondo non ha più barriere per i giovani. Radio 24 vi dice come fare per preparare la valigia e partire. Informazioni pratiche, dritte, testimonianze dirette, offerte di lavoro e siti internet di riferimento oltre confine. Un manuale utile per cogliere le enormi opportunità di studio e professionali in questo piccolo mondo interconnesso, ovunque vogliate andare. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nove, dieci minuti, buongiorno ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno, buona domenica da Carlo Gabardini. Ben ritrovati col Si Può Fare, a caccia di buone notizie. E per esempio, allora, dopo una lunga campagna sui vaccini, un decreto legge che impone l'obbligo, delle polemiche che sappiamo non sono mancate, ma non voglio annoiarvi con le notizie che conoscete già, la notizia è questa: nonostante tutto, secondo gli ultimi dati pubblicati da Observa, sono solo l'8% degli italiani contrari realmente ai vaccini, cioè alla fine prevale la fiducia nei vaccini. Io e le mie figlie ho fatte vaccinare, questo lo ricordo sempre, è importante farlo. Poi naturalmente ognuno ha i dubbi, i pensieri che ha, e questo va bene, però siamo una comunità e dobbiamo ragionare comunitariamente. Come un gregge, dicevi. Come un gregge. No, in realtà è anche una buona notizia, perché questo dibattito, che ci ha anche un po' stufato, se vogliamo, in realtà ha portato del bene, ha portato che un sacco di persone si sono informate e credono nella scienza, e quindi dicono effettivamente a volte può esserci un rischio, ma se il rischio è di uno su un milione, uno su 100.000, uno su 10.000, è un rischio che va forse corso, perché per si debellano delle enormi malattie. È ovvio che se poi parli con chi è quel singolo su 100.000, lui sarà contrario ai vaccini e ci mancherebbe altro, come fare a non comprenderlo. La regione Lombardia, l'abbiamo già detto anche qualche settimana fa, ha ridotto il numero di bambini non vaccinati prima ancora che entrasse in vigore l'obbligo, semplicemente mandando delle lettere ai pediatri che hanno scritto alle famiglie non vaccinate e hanno aperto un dialogo. Esatto, si sono che è il metodo tedesco. Che è il metodo tedesco, è un metodo che funziona. Esatto, un'altra buona notizia: ci si chiede qual è il museo più amato d'Italia, e c'è una classifica molto interessante perché è fatta da TripAdvisor, quindi come per i ristoranti anche per i siti culturali e quindi i musei. È una buona notizia, o speriamo che diventi una notizia migliore. Secondo la classifica stilata dal popolare sito, il polo museale piemontese, ovvero il museo dell'antico Egitto, è il primo nel nostro paese, però è solamente nono in Europa e 14° tra quelli di tutto il mondo. Però intanto abbiamo questa posizione, e tra l'altro è interessante vedere che in un paese come l'Italia, che è strapiene, come diciamo spessissimo, ha una percentuale altissima del patrimonio culturale mondiale, in realtà quello più visitato è quello che si occupa degli egiziani. Dedichiamo questa notizia ovviamente a Regeni. Abbiamo in onda Cristina che chiama da Bergamo. Buongiorno, benvenuta. Cerchiamo un personaggio della settimana. Tra l'altro ricordo l'indizio, non molla, tra poco daremo anche un altro indizio. Vai Cristina. Buongiorno. Buongiorno. Io telefonavo per la questione degli animali nei circhi. Sì. Allora, non sono assolutamente d'accordo con l'idea di toglierli da lì, perché almeno nei circhi sono controllati. Li lasciamo in balia dalla gente che ne fa quel che vuole. Proprio stamattina hanno detto che ci sono gli oceani pieni di plastica, che abbiamo gli animali in estinzione. Tu dici è più sicuro è più sicuro un delfino in un acquario che metterlo nell'oceano che si mangia la plastica. Purtroppo esatto, e anche gli animali messa nei così circhi sono curati, e che poi dopo, alla fine dei loro giorni, vengono poi uccisi, quello è un altro problema. No, quanto, però esiste anche il problema dei maltrattamenti durante, mentre sono ancora in vita, e comunque nel momento che si parla di tigri o elefanti non è che escono dai circhi e vengono dati ai cittadini normali, perché comunque delle tigri non si possono tenere in casa. Ho capito, ma tutti gli animali in genere, anche quando si vede che per televisione ci sono anche nelle famiglie o nelle gente che si diverte a metterli una sedia girevole finché questo animale si dottisce, cioè sono delle violenze. Non ritengo che non si abbiano i controlli sufficienti, per cui dico con tanti. Quanto tempo è che non vai in un circo, Cristina, così per curiosità? Ma saranno 2 o 3 anni. Ci vai. Ogni tanto comunque ci vai. Mi sembra molto sano il suo ragionamento del fatto di dire che anche all'interno delle case ci sono dei maltrattamenti negli animali. Ne parlavamo prima durante la pausa con Alessio, e effettivamente è vero, nel senso che chi si occupa anche degli animali dentro nelle case chissà che cosa succede. Quelli dei circhi paradossalmente li vediamo di più, perché uno può andare a vederli. Invece se il mio vicino di casa spegne la sigaretta sul proprio gatto, io non lo so. Non possiamo saperlo. Sarebbe bello che questa mattina chiamasse qualcuno di voi che ha vissuto vicino a un circo, ha lavorato in un circo o in un parco dove ci sono gli animali, perché la domanda è se è così diffusa la pratica dei maltrattamenti o pratiche plateali di sfruttamento negativo degli animali nei circhi, che sono comunque in questi anni molto cambiati. 800 24 00 24 sarebbe un bel modo per nominarvi controllori dei fatti, perché stiamo cercando così di elevare i nostri ascoltatori così a persone che conoscono la realtà e possono aiutarci a capirla. E si tratta tra l'altro di un lavoro a tempo indeterminato, che in questo momento nel paese è importante. Non è poco. Francesco da Bari, benvenuto. Ciao. Innanzitutto vi ringrazio per la compagnia che mi state facendo. Sto potando i mandorli e mi sto divertendo un mondo. Ma è bello. Ma è a potare i mandorli che si sta divertendo, non ascoltandoci. No, ascoltandovi. Stanno godendo pure i mandorli. Fantastico. La ringraziamo moltissimo. Sì, non ti distrarre con questa potatrice, stai attento. Perché, sì. Pronto? C'è stato un attimo di mestizia su questa cosa. Francesco, cosa volevi dire, oltre a dire che sei felice di ascoltarci? Rispondere al quiz odierno. Prego. Odierno, qual è la tua risposta? Odierna? La Merkel, la futura premier della Germania. Cancelliere. Direi futura e anche passata, visto sì. che sta per andare verso il Merkel quarto. Magari. Per me andrebbe bene. Ah, perfetto. Quindi c'è anche un endorsement nei confronti. Tanto sono chiuse, vero, le urne in Germania? Non importa, mica votiamo noi, votano loro. Oggi votano. Comunque era un trappolone. Ottima la risposta, perché sicuramente la Merkel è un personaggio che non molla mai, ma non era il personaggio che avevamo scelto. Ci spiace, ma siamo felicissimi che veniamo ascoltati anche dai tuoi mandorli. Traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Si può fare! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Make a better place with my own two hands. Make a kinder place. Oh, with my own two hands. With my own. Allora, cari ascoltatori, è con noi e siamo felici di averlo in collegamento telefonico un uomo che è un artigiano, ma anche un artista, realizza telai di biciclette che, tanto per dirne una, ieri il nostro regista Carmelo La Rucella, che è un amante di biciclette, ha detto no, intervistate Dario Pegoretti, peccato che non sono in diretta domani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, l'occasione ci è data dallo Spin Cycling Festival di Roma, un festival che itinerante quest'anno a Roma, tutto quello che gira intorno alle due ruote, quelle però senza motore, quelle buone, diciamo così. Storie sì. di uomini e donne che amano la bicicletta, come lei Pegoretti. Ha iniziato quanti anni fa a fare questo lavoro? Io ho iniziato nel 1975, ero un ragazzotto in pratica, e appena finita le scuole superiori, prima un po' come un gioco, poi dopo qualche anno è diventata una professione. Prima come dipendente e poi adesso ha un'azienda sua importante che esporta telai in tutto il mondo, fra l'altro la canzone che abbiamo appena sentito le dice qualcosa, Ben Harper? Sì, è una canzone di Ben Harper, sì, è uno che usa una bici mia, sì. Cioè, tanto per dire, è questo che è bellissimo, sì, è uno che usa una bici mia. Senti come lo dice così, con nonchalance, con disinvoltura, perché non è l'unico tra l'altro. No, io ho letto di Robin Williams anche. Sì, aveva diverse, ha avuto credo 5-6 bici mie. Neanche una. Che vogliamo ricordare, insomma, Robin Williams. Beh, tenete conto che era uno che aveva un parco macchine di una cinquantina di pezzi e erano tutti di livello molto elevato, cioè era uno veramente con una passione enorme. Quindi troppe poche biciclette, stiamo dicendo, perché se le automobili erano 50, le biciclette erano solo 5? Eh? No, solo 5 quelle di Pegoretti. Poi chissà, ne aveva anche delle altre. Tra l'altro è vero che vi siete incontrati a una fiera nell'Oregon, dove lui è venuto perché sapeva che c'era lei, Pegoretti, cioè invece di essere il contrario. No, è venuto, sì, è venuto, eravamo a Portland per un NABS, ma non mi ricordo esattamente, penso fosse il 2007-2008. E sì, è venuto a San Francisco a fare un giro, perché io stavo in un momento un po' particolare della mia vita, nel senso che ho avuto un cancro, stavo sotto chemioterapia. È venuto semplicemente non per parlare di bici, è venuto semplicemente per, chiamiamola così, per incoraggiamento, per conoscere, quattro chiacchiere, certo. Per, che tra l'altro è stato piacevolissimo, perché siamo stati a cena e praticamente ho cominciato a ridere alle 8 di sera, ho finito che erano le 11. Ma che meraviglia, che meraviglia. Senta, ma che cosa hanno di speciale queste bici, tanto da attirare così tanta attenzione? Ma no, a dirle la sincera verità non glielo saprei dire, cioè, non lo so. No, io ho delle regole, delle piccole regole che poi sono... Seguo un po' quella che è la tradizione della telaistica italiana, non sì. ho cambiato poi moltissimo per quanto riguarda la parte geometrica e ho usato un po' i colori, sì, negli ultimi 15 anni ho usato i colori un po' in maniera selvaggia. È vero che dando una scorsa alle gallerie, alle carrellate di immagini delle sue biciclette, si nota i colori molto variopinti, si nota una diversità proprio di colorazioni sorprendente. Il nostro Carmelo La Rocella però aveva una domanda per lei, Pegoretti. Ma volentieri. Ma perché lui dice, è vero che fa solo bici in acciaio alluminio ma non usa il carbonio? Io non so bene di cosa stiamo parlando perché non sono un amante. No, è vero. Sono tre dei materiali usati in campo ciclistico. Sì. Oggi è predominante il carbonio in assoluto, cioè credo che il 99% delle bici da corsa che girano in giro per il mondo siano in carbonio. E, no, io non lo uso un po' perché sono troppo vecchio per mettermi a fare queste cose, un po' perché dovrei ricominciare da capo. Perché è una tecnica diversa, ovviamente, molto, sì, molto diversa, e invece lei preferisce da questo punto di vista la tecnica tradizionale. Però non tutti possono permettersi un telaio di Pegoretti, giusto? C'è anche una lista d'attesa, mi sembra un po' come la Ferrari. Ma guardate, questa secondo me è un po' una leggenda. Parliamo col titolare, quindi. Può smentirla? No, è una leggenda nata dal fatto che c'è questo modo di pensare per cui una bici in acciaio, essendo vecchia, cioè vecchia in termini di temporali, sì, dovrebbe costare meno di una bici in carbonio che è tecnologicamente più avanzata. Questo è un modo comune di pensare. E invece non è così. No, in realtà non è così. In realtà non è assolutamente così. Ah. E il costo più o meno è equiparato a quello nella stessa gamma di prodotto a quella di una bici in carbonio. Però dai, ce lo dico, ma di che cifre stiamo parlando? Tanto noi non ce lo possiamo permettere niente. Una bici oggi mia o anche di un altro collega. La sua vogliamo. Ti gira su dai 6.000 euro in su. Insomma, cosa vuoi che siano 6.000 euro? Quello in su che mi preoccupa. No, è importante capire che non stiamo parlando della bicicletta così proprio qualunque. È una bicicletta da 6.000 euro in su ed è giusto che sia così. È una bicicletta speciale, insomma. Anche Pantani si faceva fare le biciclette, se non ho letto male. Quindi, sì, probabilmente costavano anche un po' di più quelle lì al tempo. Rapportate la valuta. È giusto, sì, giusto. Il prezzo poi lo definisce anche la componentistica, per cui uno se decide di usare un paio di ruote, un altro paio di ruote, le differenze possono essere notevoli. Oggi uno può trovare sul mercato un paio di ruote per 5.000 euro molto facilmente, non è difficile. Tra l'altro, se volete sapere tutto ancora di più di Dario Pegoretti, oggi allo Spin Cycling Festival di Roma, il suo incontro credo che sia alle 11.30, giusto? Sì, esatto, corretto. Sì, quindi sì, sicuramente sì. Ci sarà più tempo, meno ansia radiofonica, più tempo per sviscerare. Ma una domanda gliela voglio fare. Ma la bici, no? È il passato anche glorioso, anche epico, recente, perché la bici non è vecchissima come invenzione, o è anche in qualche modo il futuro, no? Perché se uno chiude gli occhi e pensa al futuro, cosa vede? Astronavi, no, volanti? Ci sarà la bicicletta? Io mi occupo di bici da corsa principalmente, però in realtà sto molto attento a quello che succede per quanto riguarda il problema della mobilità cittadina, urbana, e sicuramente la bicicletta è una delle possibili soluzioni, se non la soluzione regina, per risolvere i problemi della viabilità nelle grandi città. Volevamo sentirlo dire da un professionista. Assolutamente. Ci saranno anche le astronavi a pedali, io credo, molto presto, perché forse capiamo che è quella la strada. No, sicuramente questo è inevitabile. Credo che sia un percorso che bisognerà percorrere, e sia un percorso che il cittadino comune deve un po' anche accettare, entrare nell'ordine di idee di farlo, perché altrimenti ieri facevo un pezzo di strada qui a Roma. C'era credo ci fosse la partita di calcio, sì, a Roma è una cosa incredibile, cioè uno non può vivere quella. Ecco, secondo me io sono uno fortunato, nel senso, sempre vissuto, sì, in posti dove non ci sono questo tipo di problemi. In realtà poi dopo, quando vedi queste situazioni, capisci anche perché ci sono sacco di associazioni che si occupano di questo, assolutamente. Ma c'è un grande movimento attorno alla bicicletta, noi ne siamo felici, sono tante le virtù della bicicletta, però l'Italia, che tra l'altro è forse il primo produttore in Europa di biciclette, siamo tra i primi esportatori nel mondo, ma è essa stessa, senta che un po' di espressioni che sto utilizzando, un paese per ciclisti o no? Perché in effetti poi il ciclista per strada incontra sempre, viene molto osteggiato dall'automobilista, c'è forse anche un po' di invidia da parte dell'automobilista, a volte c'è un po' di indisciplinatezza da parte del ciclista? Sì, è una diciamo che è un odio-amore, perché chi usa la bici in genere usa anche la macchina, poi uno si trasforma un po' nel momento che usa un mezzo o l'altro mezzo. La condizione essenziale perché ci possa essere uno sviluppo nel futuro dell'uso di questo mezzo, sì, è la sicurezza. Oggi bisogna pensare seriamente che bisogna riconvertire quello che è la viabilità e pensare alla viabilità in funzione del ciclista. Noi facciamo un po' fatica qui, naturalmente, nelle nostre città storiche in Italia, sono strade strette e non modificabili, però sicuramente, insomma, bisogna mettere mano a questa cosa qui e mettere la gente in condizioni di poter usare la bici in sicurezza. È il fattore fondamentale. Nel momento che uno può andare a lavorare e in sicurezza, sicuramente la percentuale di chi userà questo mezzo si alza in maniera notevole. Grazie Pegoretti, è un ottimo pensiero. Buona giornata, lo trovate allo Spin Cycling Festival di Roma oggi alle 11:30, uno dei più grandi costruttori artigianali di biciclette al mondo, sicuramente uno dei più noti, che vende biciclette a tantissime persone anche famose. Allora, vi aspettiamo all'800 24 00 24, abbiamo già Giorgio che chiama da Como. Buongiorno, benvenuto. No, non abbiamo Giorgio, proviamo con Marco che chiama da Roma. Pronto? Sì. Pronto? Giorgio, vai. Giorgio o Marco? Sì. Giorgio. Ci sono. Vai, raccontaci quello che vuoi. Ma allora, è semplicissimo, io ho fatto 15 anni di vita circense, bellissima. Ah, un controllore dei fatti, sentiamo. Questo è un ruolo importante, Giorgio, perché tu ci puoi illuminare sulla vita nel circhi. Ma oddio, illuminare no, però raccontare qualcosa di vero. Sì. Perché si raccontano tante cose che non sono comunque quelle. Non tutti trattano male gli animali, anzi sono pochissimi che lo fanno, e gli animali al circo stanno bene, però c'è da dire che alcuni animali non penso che stiano benissimo. Si parla di elefanti, di giraffe, mentre invece altri come cani, i cavalli, lama, i zebù, gli emu stanno benissimo. Cioè gli animali più grandi, mi sembra di capire, hanno più difficoltà. No, esattamente, no, quelli che non nascono nel circo. Quelli che non, gli animali esotici, eh sì, quindi. Eh sì, perché i leoni e le tigri nascono, purtroppo non stanno bene, e anche quelli, secondo me, non stanno bene al circo. Però, quindi se fosse per te, come dire, elimineresti gli animali esotici. Sì. Il discorso è quello, tanti animali stanno molto meglio al circo che in altri posti. Non voglio fare esempi, ma ne faccio uno perché sono obbligato. I cavalli che corrono a San Siro sono condizionati molto più di quelli che girano nella pista del circo. Condizionati? Perché un cavallo devono non vincere. È che abbia voglia di fare quelle corse lì e di vincere per forza. Detto questo, non voglio fare commenti. No. Però invece era la posizione anche della senatrice che abbiamo sentito prima, ed è in realtà interessante capire. Purtroppo gli animalisti hanno fatto tutta l'erba un fascio e hanno condannato il circo. Io le posso dire che è 22 anni che non lo faccio più, perché dove lavorava non posso dire il nome per correttezza. Sì. Era un circo bellissimo, ha chiuso perché non si lavorava più. Adesso quelli che continuano... Ma non si lavorava più, ma a prescindere dagli animalisti... Ma perché gli animalisti venivano a fare delle guerre davanti al pendolo, ne hanno fatti di tutti i colori, e anche sbagliando certe volte, perché non si può fare così. Ma quindi i circhi sono stati chiusi dagli animalisti, il fatto che ci sono sono stati chiusi, ma sono stati comunque condannati un po', ecco, certo. Detto questo non voglio fare altri commenti, ma la cosa più bella è questa, e la vita del circo è bellissima, lavorano dalla mattina alla sera, perché per mandare avanti un tendone non è abbastanza fare lo spettacolo, c'è da viaggiare, c'è da piantare, c'è da mangiare agli animali. Ma io ho una curiosità, Giorgio, visto che hai ben impersonato il ruolo di controllore dei fatti, perché ci stai raccontando cose che hai vissuto, quando gli animali vengono addestrati per eseguire poi certi numeri, no? Il leone che salta nel cerchio, è una forma di maltrattamento? Cioè passa attraverso... Io ho detto che non stanno bene perché non è il loro ambiente naturale, però se pensate che un leone e una tigre possano essere drogati o picchiati è sbagliato, perché un animale drogato non è pericolosissimo. Quindi questa della tigre drogata è una leggenda metropolitana secondo te? O in qualche caso può essere, però casi minoritari dicevi tu. No, perché tutti sanno che quando un animale è drogato può diventare pazzo in un momento o l'altro. Perciò non li drogano assolutamente, la cosa è diversa. Però io vorrei finire con una cosa bella. Bravo. Giusto. È una poesia del circo. Ah, prego. Ma l'hai scritta tu? No. Va bene. Assolutamente. Ma è breve? È brevissima. Bravo, vai. Perché è scritta da Enrico Bassano, il poeta del circo. Vai. E siccome in questi giorni sto portando in giro uno spettacolino che fanno in piazza, perché questi avevano un grande circo ma l'hanno chiuso, perciò tutti i fratelli e sorelle fanno gli spettacolini in piazza come si usa adesso, i famosi salti in banchi. Sì, vai con la poesia, vai. Anni fa. La poesia dice, signore e signori, bambini, chi vi parla è il circo. Benché io sia il più antico fra tutti gli spettacoli al mondo, so sempre dare ai miei più piccoli ammiratori il più vero, il più morale, il più sano dei divertimenti. E tu, fanciullo, che hai visto tutto quello che ti ho presentato, devi sapere che il mio desiderio è quello di renderti felice, e la soddisfazione di esserci riuscito mi riempie di gioia, perché il circo... Vabbè, oh Giorgio, eri meglio come controllore dei fatti che come lettore di poesie. La poesia non... la stoppiamo qua. Comunque grazie, perché mandacela, che la mettiamo su Valletta, oppure la pagina Facebook. Oppure ci vuole un attore per impersonarla, però vedi, è stata una bella telefonata perché ci ha illuminato, io dico così, un angolo di questa realtà di cui abbiamo parlato stamattina. Mi fate fare anche un ascoltatore sul gioco, ce l'abbiamo, Pietro da Legnano, vai, così diamo un altro indizio se non ci arrivate. Vai Pietro. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, il personaggio del giorno secondo me è Orietta Berti. Perché? Orietta Berti, cosa ha fatto questa perché settimana? Perché ha vinto un contenzioso con il fisco, ha resistito, diciamo, ha impugnato le sentenze primo e secondo grado, è arrivata in Cassazione e alla fine ce l'ha fatta. Lo so. Ha vinto con il fisco. Eroe del contribuente della settimana, ma non era il nostro eroe, Pietro. Ti ringrazio. Grazie. La notizia c'era, ma il nostro è un personaggio plurimo. Vai, così ho dato anche il secondo indizio. Bravo Alessio. Non molla ed è plurimo, 800 24 00 24, ci sono i biglietti di Klimt che vi aspettano. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 9:35 minuti, andiamo con Luciana che ci chiama da Roma. Benvenuta Luciana. Grazie anche a voi, ben trovati. Grazie. Buongiorno. Scusate che non ho molta voce. Ma ha una voce bellissima. Insomma. Un po' rauca. Non preoccuparti Luciana, su cosa volevi intervenire? Sì, sul personaggio che ci prova e ci riprova. Chi è? Secondo me è Renzi. Matteo Renzi non molla. Sì. Non molla. No. Qual è la notizia però di questi 7 giorni che vuoi associare a questa tua risposta? Oddio, questo non l'avevo proprio pensato. Perché comunque il nostro notaio è intransigente, cioè ci vuole la notizia. Se non c'è la notizia non c'è il personaggio, giusto? Giusto, però su Matteo Renzi ho anche detto sì, bene o male. Comunque, accogliamo la candidatura, e però le dobbiamo rispondere che purtroppo non è il personaggio che avevamo pensato. E quindi niente. Al di là delle notizie. Va bene, però grazie per aver tentato. Grazie. E la notizia ci serve anche così per fare un po' di ripasso della settimana. Giorgio da Macerata, vai. Pronto. Allora, secondo me sono i Rolling Stones che hanno fatto un concerto a Lucca ieri. Questi sì che non mollano. Eccolo qua. parte l'applauso del concerto, in realtà. Questo esatto. Era l'applauso dei 60.000 a Lucca, ai Rolling Stones. No, ma hai anche vinto. Era il personaggio che abbiamo scelto. Hai vinto i due biglietti per andare alla mostra di Klimt al MUDEC di Milano. E grazie per aver chiamato. Bravo, Giorgio. Ce n'erano parecchi di personaggi che non mollano questa settimana. C'era Valentino Rossi, la Merkel. Ci avevamo anche San Gennaro, volendo, che avevamo lì in, come trappolone. E poi sei arrivato tu, Giorgio, e hai indovinato. Ma eri al concerto, mollano, Giorgio? No. Ah. Io sono un po' più vecchietto, insomma, sto qui a casa con la famiglia. Più vecchio di Rolling Stones non è possibile. O ne hai 180, oppure... Più vecchietto per andare a questi concerti, insomma, così, ecco. Ma se gli Stones, che hanno quasi 80 anni, suonano sul palco, secondo me... Esatto. Si può però fare. Però secondo me dietro al palco c'erano quelli pronti col defibrillatore... Questo è possibile. Per rianimarli subito, c'era una equipe medica... ordine. Giustissimo. Kate Richards, se ti sentisse, si cavolerebbe tantissimo. Va bene. Speriamo che comunque sei troppo vecchio per andare a vedere i Rolling Stones, ma non troppo vecchio per andare a vedere Gustav Klimt al MUDEC di Milano. Allora, si può fare, va in Germania per farvi vedere, per raccontarvi come si sta cercando di dare risposte concrete al bisogno di sicurezza delle donne di notte, ma non solo. E ci sono almeno due idee di cui vogliamo parlare con Gloria Remeni. Buongiorno, benvenuta Gloria. Buongiorno a tutti. Lei è vice direttrice di Berlino Magazine, sito di italiani a Berlino. Una delle due idee, i giornali hanno titolato così: Germania, tornare a casa da sole non fa più paura grazie al progetto di due ragazze e se stesse tedesche. Parliamo di un telefono, Heimweg Telefon. Ecco, vedi perché Carlo ha studiato la scuola tedesca. Giusta la pronuncia? Corretta? Perfetta. Che vuol dire però in italiano? Vuol dire telefono del ritorno a casa. Esatto. E come funziona, Gloria? Sulla via di casa. Allora, esatto, sulla via di casa, telefono del ritorno a casa. Praticamente tutte le donne che tornano a casa a Berlino, ma in qualsiasi altra città della Germania, possono chiamare un numero che fa capo a un centralino collocato a Berlino e possono, usufruire di assistenza telefonica da parte di una rete di volontari distribuiti in tutta la Germania che accompagnano la donna nel percorso verso casa. Come fanno? Innanzitutto le si chiede la collocazione e quindi il percorso della donna viene poi seguito attraverso Google Maps. La donna deve aggiornare l'interlocutore regolarmente. Su dove si trova? Seguendo la strada, esatto. Ma soprattutto il volontario cerca di infondere coraggio alla persona che telefona. Non stiamo parlando soltanto di donne, perché il servizio è aperto anche a uomini, infatti, qualunque persona. Volevo esattamente chiederti questo, perché dicevo, è perché se uno ha paura ed è un maschio non può chiamare, quindi hai già risposto ed è perfetto. Esatto, tutti possono chiamare, però chiaramente si rivolge in particolare alle donne, perché le due fondatrici sono donne e perché si sente soprattutto di casi di violenza nei confronti di donne. Certo. Dunque, Gloria, ti voglio chiedere, da donna, non so se hai avuto modo di sperimentare questo servizio, non so che cosa dice la stampa tedesca o anche le donne che lo hanno provato, che sensazione di sicurezza può derivare? Perché uno può pensare che è un aiuto impalpabile o solo una questione psicologica, però credo che invece possa essere un vero sostegno avere qualcuno dall'altra parte del telefono che ti parla e che può anche intervenire qualora dovesse succedere qualcosa. Assolutamente sì, perché a tutti donne e non donne è capitato di appunto camminare in una strada magari buia dopo una serata con amici e si ha la necessità di chiamare una voce amica. E infatti diciamo che l'utilità di questo servizio è proprio il cercare di fornire una voce amica. Il volontario non si pone come un poliziotto, un'autorità, ma più come una voce così dolce. Si può anche fare amicizia magari, no? Uno chiama, poi richiama, poi alla fine magari, che ne so, può anche nascere un'amicizia certo. telefonica. Anche una relazione. Anche una relazione. C'è un'altra iniziativa però, Gloria, che è quella del come dire, del condivisione dell'auto, un servizio di condivisione dell'auto per donne, però mirato proprio a risolvere il problema del rientro tardi la sera quando dovesse capitare di essere sole. Sì, allora in diverse città della Germania ci sono i cosiddetti Frauen Taxi, che sono appunto taxi per donne e bisogna appunto riservare esplicitamente un taxi per donne quando si fa la prenotazione al telefono e si ha diciamo accesso a una tariffa agevolata. Ci sono anche le Mietfahrzentrale, che sono delle sorte di centralini che però gestiscono i trasporti di lunga distanza, quindi da Berlino per esempio a Monaco di Baviera o anche da Berlino in città di altre città europee, che sono però specificatamente per donne, quindi cercano un po' anche in questo caso di tutelare le donne che vogliono fare un viaggio di lunga distanza spendendo poco, perché chiaramente non si hanno le tariffe del treno o di un aereo, però rimanendo comunque sicure, quindi condividendo il passaggio con altre donne. Un servizio di car sharing che però è mirato proprio a questo tipo di necessità. Poi avevamo una domanda da farti. Te la fa Carlo in tedesco? No, non in tedesco, nel senso che c'è questo altro. C'è Luisa. Esatto, c'è questo altro, mi viene da chiamare servizio, però in realtà è un progetto che coinvolge 30 locali pubblici cittadini, che è questo per cui se una donna ha la sensazione di essere vittima di una molestia o anche di una minaccia, con una domanda. Si attiva con la c'è domanda Luisa? E chiedendo "Ist Luisa da?", ovvero "C'è Luisa?". E mi chiedevo come funziona questa cosa e soprattutto mi chiedevo come hanno reagito le persone che si chiamano Luisa in Germania, perché ovviamente questa è una sorta di parola d'ordine, per cui tutti nel locale lo sanno, se uno dice "C'è Luisa", tutti capiscono che quella donna evidentemente sta subendo qualche cosa e quindi possono chiamare un amico, possono decidere di reagire in maniera tranquilla o al limite chiamare la polizia se vedono che sta succedendo qualche cosa. Ci racconti come funziona? Sì, certo. È nato a Münster, questo in Germania, in realtà però ispirandosi a un'idea già nata nel Regno Unito, dove però si chiede di Angela, non di Luisa. Diciamo che si fa uso di una parola d'ordine perché spesso la denuncia di molestie e violenze è legato anche a un sintomo una sensazione di vergogna o di imbarazzo, pertanto una parola d'ordine aiuta le donne, incoraggia le donne a denunciare e a richiedere aiuto. Pertanto se una donna in un locale di Münster, ma ora in anche altre città della Germania, si sente vittima di molestie, può appunto rivolgersi al personale del locale chiedendo se c'è Luisa. Il personale che è al corrente della parola d'ordine ed è anche addestrato può appunto andare in aiuto della donna conducendola in un locale separato, che è dopo della problematica, e in caso di bisogno chiamare un taxi, un amico, un familiare, certo, o eventualmente la polizia. Però adesso sono anche i molestatori conoscono la parola d'ordine, è un problema? Ma no, non è un problema, magari questo funziona anche da deterrente, quindi sanno che c'è Luisa pure loro. Bisogna cambiare la password, ogni tanto bisogna aggiornare la password. Gloria, noi abbiamo bisogno anche che tu faccia una cosa per noi. Come si dice si può fare in tedesco? Man kann's machen. Oh mamma. Man kann's machen. Brava, l'avete detto. Man kann's machen, perfetto. Così lo usiamo per fare un bel promo del programma con tutti si può fare nel mondo. Luisa, stavo per dire. Ma ce lo puoi Luisa, forse dire c'è anche. Luisa, c'è Gloria. Ho letto male, ce lo puoi dire anche in ungherese, giusto? In ungherese. Perché? È giusto? Aiuto, non giusto. Capisco. Lehet csinálni. Ah, questo perché tu conosci anche l'ungherese, quindi è mezza italiana e mezza inglese. Allora, beh, perché non in rumeno? Non lo so, in qualche perché sono queste le lingue che conosce. No, ci stava a provare. Grazie, Gloria Remeni. Grazie mille, vice direttrice di Berlino Magazine, che abbiamo nominato oggi, inviata dalla Germania. 800 24 00 24. Torniamo tra poco. Il personaggio della settimana lo abbiamo individuato. Non e c'è adesso tempo, ne pensiamo un altro. Ma non so se vediamo. Vediamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sentiamo ancora un ascoltatore, va. Marco da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Io volevo ricollegarmi al discorso del circo. Sì. Dire che non è l'idea che ci sono. Non sentiamo, sentiamo malissimo. Sentiamo maluccio, Marco. Vediamo se riusciamo a recuperarlo meglio. Proviamo con Alberto, che chiama da Perugia. Ciao, buongiorno. Ciao Alberto. Buongiorno. Senta, non abbiamo sotto mano la legge, purtroppo. Sentivo l'onorevole Grada. Declinava questo graduale superamento, mi mette in pressione. Cosa vuol dire? L'abbiamo chiesto espressamente. Ma non ha risposto. Esatto, in realtà ha ripetuto che è simile all'eliminazione, al che giustamente gli abbiamo anche chiesto che il rischio è di avere la sensazione che in realtà sia una legge per cui poi non accadrà nulla. Infatti, un elefante quanto campa? Adesso sta facendo troppe domande. No, voglio dire, se un elefante camperà 50 anni, è graduale superamento, se ne parla fra 50 anni. In questo caso sì, ma abbiamo capito comunque dalla senatrice Di Giorgi che questo disegno di legge in realtà è una cornice che andrà ancora riempita di contenuti. Di sicuro si parla di progressiva chiusura dei circhi che impiegano gli animali, ma quanto tempo ci vorrà? Ha ragione anche questo ascoltatore, non è affatto chiaro. È il momento di lanciare l'ultima iniziativa di oggi. Ce ne parla, è con noi Dario Marmo della cooperativa Lama. L'evento Open Maker in realtà avviene giovedì prossimo al Polifactory del Politecnico di Milano, credo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Uno dei tanti eventi che ruotano attorno della Digital Fabrication, dove le tecnologie digitali, però per una volta, siccome spesso ne parliamo, anche perché pur creando nuove opportunità di lavoro, però spesso finiscono per sopprimere vecchi mestieri, antichi mestieri. In questo caso si cerca, se ho capito bene, di far convergere le tecnologie digitali anche con certi antichi mestieri artigianali. Di che si tratta? Allora, il progetto Open Maker è un progetto finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Horizon, che ha l'obiettivo di favorire in ottica open source lo scambio di sapere, la condivisione e la collaborazione tra imprenditori, artigiani, professionisti e appunto innovatori del settore digitale in tutta Italia. E lo fa attraverso eventi, costruendo anche una piattaforma digitale che faciliti l'incontro, oltre alla messa a disposizione di fondi per lo sviluppo, ecco, di questo può essere un elemento importante, perché è un appello, anche un bando, no? C'è una call, come si dice in inglese, cioè esatto. C'è una chiamata a portare delle idee che poi possono anche essere finanziate, ricevere dei soldini europei. Sì, esatto, dal 18 settembre al 18 ottobre è aperta e di fatto finanzierà lo sviluppo di 20 prototipi innovativi di prodotto, di servizio o anche relativi al cambiamento del processo produttivo, da sviluppare in collaborazione tra aziende e makers, comunque esperti digitali, e finanzierà appunto con 20.000 euro ogni idea vincitrice. Possiamo fare qualche esempio, se c'è già qualcuno che si è fatto avanti, o comunque l'ambito del quale stiamo parlando, magari possiamo svelare anche qualche suggerimento a qualcuno, rivediamo qualche segreto industriale. Assolutamente sì. Faccio degli esempi che come cooperativa Lama, organizziamo il progetto in Italia, sì. Abbiamo incontrato già in questi mesi di esperienza. Allora, parto con un esempio di innovazione di prodotto. Sono tutti reali. C'è un'impresa manifatturiera che produce giocattoli in maniera abbastanza tradizionale e ha incontrato un'azienda di maker, di esperti di tecnologia digitale, che ha proposto di inserire Arduino, per chi non lo sapesse, è una piattaforma hardware open source, quindi modificabile, programmabile, di inserirla nel giocattolo, rendendolo quindi programmabile, in qualche maniera rendendolo un piccolo robot per giocare. E le potenzialità per questo tipo di prodotti, di nuovi giocattoli, aprono un mercato molto più ampio dei giocattoli tradizionali, ad esempio. Ecco, questa azienda, insieme a quei maker, possono applicare alla call per sviluppare il prototipo di questo nuovo prodotto, in qualche modo. Quindi questo era un esempio sul prodotto. Siamo rimasti senza parole perché... Perché era interessante. Perché era interessante, ma perché è un mondo che si sta affacciando. Cioè, Arduino dentro un giocattolo. Cioè, stiamo parlando di cose che 10 anni fa già non avrebbe detto, ma cos'è Arduino? Adesso più o meno lo intuiamo tutti. Però, sì, anche perché noi di Arduino abbiamo parlato diverse volte. Dovrei fartene parlare con mia figlia, Viola, che ha 6 anni, ma sicuramente ne sa più di me di queste cose. Poi un altro esempio ce l'abbiamo, Dario? Certo, ad esempio, per quanto riguarda il processo. Abbiamo un'azienda che fino ad adesso per prototipare nuovi prodotti, modifiche al prodotto, doveva ricorrere a fornitori internazionali. Ora, grazie alla stampa 3D, può internalizzare un pezzo del processo collaborando con degli esperti di stampa 3D e quindi in qualche maniera ricambiare il modo in cui produce, rendendolo locale e generando opportunità locali, perché appunto la tecnologia è diventata più accessibile, meno costosa, e la conoscenza di questa tecnologia è diffusa sul territorio. Quindi in qualche maniera, se il processo produttivo dell'azienda cambia, l'azienda può presentare l'idea che è quella di cambiare effettivamente il proprio processo, al di là del prodotto che poi sarà un prodotto finito di quella produzione. Ecco. Allora, Open Maker, giovedì al Polyfactory, diamo però, Dario Marmo, un sito, una piattaforma, un canale per Arduino. Partecipare. Ah no, scusa, ho sentito piattaforma, ho detto Arduino. Allora, assolutamente sì, si può andare sul sito openmaker.eu. Sì. Come Europa, o it.openmaker.eu per chi volesse il sito in italiano, dove ci sono tutte le informazioni sul bando. Per quanto riguarda l'evento, anche ci sono indicazioni sul sito. Perfetto. L'evento si chiama Desire for Meaning, è un evento in inglese, lo dico insomma perché ci sono ospiti internazionali e insieme a questi. Quindi sei autorizzato a usare tutte queste parole inglesi. Grazie, abbiamo dato anche mille. I contatti, siamo in chiusura, proviamo però a dare la parola ancora una volta ad un ascoltatore, Marco da Roma. Buongiorno. Adesso. Buongiorno. Sì, bene. Io volevo solo dire questo, che il messaggio che ci sono animali trattati bene o male in circo è sbagliato, perché il circo di per sé è un maltrattamento degli animali, perché un elefante su una palla nella savana non è che non ci va perché non ha la palla, perché gli si sta facendo fare una cosa contro natura. Questo è un punto di vista, Marco. Esatto, nel senso che prima sentivamo qualcuno, per esempio anche il gatto in appartamento, e per esempio anche i cavalli che devono correre per chi vince e chi arriva primo all'interno di un ippodromo, non è quello che fanno normalmente. La questione è complessa, ci vorrà, credo, una legge. Oddio, ho detto che ci vuole una legge. Quante leggi ci sono di troppo in Italia? Però in questo caso forse sì. Cari ascoltatori, abbiamo parlato di circhi questa mattina, ma chiudiamo qua. Ringraziamo Andrea Piana, Claudia Schiattone, Miriam Lucchetti, oggi in assistenza in diretta, Peter Bescapè in regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo con i nuovi orari, 7.39, 8.15 la domenica, 8.10 fino alle 10. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini, e salutiamo anche chi ci ascolta in podcast.